Buongiorno, chérie. Ma che aroma delizioso! D'altra parte, il sapore del primo caffè del mattino è ineguagliabile. Grazie mille, è il modo migliore per aprire il nostro Early Bird Special, anche questo mercoledì 7 novembre. Aloha, passerottine e passerottine care, buongiorno, questo è mercoledì 7 novembre, questo è l'Early Bird Special, questo è Rock FM, la migliore stazione radio in circolazione perché trasmette la migliore musica in circolazione. E poi c'è Chuck Bird, è il valore aggiunto. Ancora qui,

Ehi, siete dei fans dei Guns N' Roses? Beh, se foste stati al concerto che la band avrebbe dovuto tenere il 6 dicembre 2002 a Filadelfia, forse non sareste così entusiasti del talento di Axl Rose. Ne volete sapere di più? Ci sentiamo dopo I Saw Her Standing There, John Lennon e Elton John. Che coppia, ragazzi! Elton John, John Lennon, I Saw Her Standing There. Ma in questo momento vi voglio raccontare di un concerto dei Guns N' Roses che non venne mai fatto. Spero che non ci sia nessuno dei 14.000 fans che, dei Guns N' Roses che comprarono il biglietto per il concerto del 6 dicembre 2002 che si doveva tenere alla First Union Center Arena di Philadelphia negli Stati Uniti, perché altrimenti aprirei una ferita veramente dolorosa. Insomma, la band partiva da New York a 2 ore di macchine da Filadelfia. Tutti partirono nel primo pomeriggio, tutti tranne Axl Rose, il leader dei Guns N' Roses. Alle 19.30 lui era ancora all'hotel e tutti si domandavano come avrebbe fatto ad arrivare in tempo per il concerto. Beh, i Guns N' Roses dovevano iniziare il loro show alle 22.30, ma alle 23 una voce annunciava l'annullamento della data. Il pubblico, già piuttosto su di giri, si scatenò e fu un vero inferno. Cominciò un bombardamento sul palco di bicchieri vuoti di birra e altre immondizie. Poi si cominciarono a distruggere le sedie dell'auditorium. La gente gridava Ax Sax, Ax Sax, e una mezza dozzina di ragazze vennero minacciate di sevizie dai fans andati fuori di testa. I fans spaccavano tutto urlando Axl, Axl, e la security era attaccata in maniera selvaggia. Il banco regia venne distrutto e così pure i camerini, e vennero fatte scritte oscene con la vernice spray su tutti i muri dell'arena. Che fine aveva fatto Axl Rose? Aveva avuto un incidente sulla strada tra New York e Philadelphia?

Van Halen! E la California qui a dettare legge nella scaletta di Hurley Bear Special di questo mercoledì 7 novembre 2007. Ragazzi, vi è piaciuta la storia sui Guns N' Roses che vi ho raccontato qualche minuto fa? Beh, potete raccontarmi anche le vostre avventure di rock and roll. Potete farlo scrivendomi a bird@radiorockfm.com. Io sarò felicissimo di leggere le vostre avventure qui in diretta tutte le mattine dalle 6 alle 7 all'Early Bear Special. Noi siamo pronti e voi? We are ready. Basson! La vita sarebbe durissima tutte le mattine qui all'Early Bear Special se non ci fosse la dolcissima Cherie a portarmi la mia fornitura mattutina di caffè nero bollente. Eccola qui. Grazie Cherie, senza di te non saprei proprio come fare.